make the decision. Every man could walk this earth on equal conditions. E allora, sempre sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Attica Blues, come ogni lunedì a sera. Live and direct dalla radio che non se pia. Nella puntata di questa sera di Attica Blues vi leggeremo qualche brano di un libro pubblicato nel 2010, ma che siamo riusciti a leggere soltanto adesso, che si intitola Noi italiani neri, storie di ordinario razzismo. Il libro è stato scritto da Pap Kuma, senegalese di nascita e cittadino italiano, che dirige la rivista online di letteratura della migrazione El Ghibli. Vive a Milano e lavora in una libreria. In questo libro Pap Kuma ragiona su come i popoli si intreccino e si spostino da una sponda all'altra del Mediterraneo, venendo a trasformare quella che è la nostra concezione dell'identità nazionale italiana come bianca e monocolore, e ragiona su, per esempio, l'anima nera del calcio italiano, sui giovani delle banlieue, i giovani italiani neri, quelli che hanno il passaporto italiano e la pelle di un altro colore. E allora, di sottofondo scorrerà un po' di musica, come al solito, dell'universo black, qualche saltino in battere e levare. Beh, io ho fatto il compleanno da poco e chi è della mia generazione si ricorderà sicuramente lei e questa canzone.

e quindi lei, signor giudice, io, gli aggressori di Udine, dagli aborigeni agli Zulù, dagli arabi ai tibetani, gli ultra della Juve o della Lazio, i politici padani come gli abitanti di Rosarno e gli assassini di Castel Volturno, apparteniamo tutti unicamente alla razza umana. You get a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Non esistono oggi razze nere, bianche o meticce, non sono mai esistite. Eppure ancora oggi può succedere che dei baristi uccidano a sprangate un ragazzo sospettato di aver rubato un biscotto solo perché è nero. E avviene anche che dei giudici scambiano l'ingiuria razzista di chi spranga una donna nera per generica antipatia verso una razza diversa. La questione oggi sul tavolo è: esiste un problema di razzismo nella nostra società o sono solo casi isolati? E da dove traggono origine questi casi? Il mio rientra in uno di questi casi isolati? Sono un cittadino italiano di pelle nera. Sarò sempre considerato un italiano di serie B? O neppure cittadino, ma sempre solo un ospite? Quello che è successo a me, l'aggressione in strada per non aver voluto mostrare il biglietto del tram mentre camminavo, sarebbe mai potuto accadere a un italiano di pelle bianca? No. Ha senso dunque chiedersi in questa sede da dove nasce questa generica antipatia verso il colore della mia pelle? E soprattutto, ha senso capire il tipo di discriminazioni che deve patire un cittadino come me, un italiano nero? Io ritengo fermamente di sì, ed è quello che cercherò di dimostrare in questa mia arringa difensiva. Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Still drinking late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Someone, be someone, be someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Signor giudice, mi chiamo Paolo di Op Ravenna. Ho un padre bianco e una madre nera. I colori di mio padre e di mia madre si sono fusi nella mia pelle. Ho tratti somatici africani, europei, fieramente ibridi. Per i neri sono un bianco, per i bianchi sono sempre un uomo nero. Essendo bianco e nero, senza sentirmi un camaleonte, dovrei appartenere allora a una razza diversa da quella dei miei genitori? Quello che importa è che nella vita di tutti i giorni esistono tanti veri Paolo di Op Ravenna, con un padre bianco e una madre nera. Sono i nuovi cittadini italiani, definiti erroneamente immigrati di seconda generazione, soprattutto quando la loro pelle non è bianca. Sono figli o figlie nati da matrimoni misti, tra italiani e straniere, tra stranieri e italiane. Sono i bambini adottati sin dalla nascita e cresciuti in famiglie con la pelle diversa dalla loro. Sono semplicemente persone nate e cresciute qui da genitori stranieri. Questi ragazzi spesso non sono né bianchi né neri, o sono entrambe le cose insieme. Si identificano con i ragazzi della loro generazione, sono attaccati all'Italia e la amano con spontaneità. So I remember when we Sono persone in carne e ossa che raccontano storie vere, storie di persone abbracciate da due mondi, che si radicano in quello nuovo ma non sono indifferenti a quello d'origine. Giovani che hanno orizzonti più ampi e che saranno il futuro in un mondo sempre più meticcio. You got a fast car, we go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job, now work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburb. Certo, quante faide in nome delle razze, della religione, Pomboclat. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. E allora il pensiero così vola nelle West Indies, dove i Rasta usano dire one blood, one god, one destiny. E quindi mi passa subito per le mani un CD di Toots Hibbert e Bunny Wailer. Ce l'hai una fast card, allora take a trip. To take a trip, take a trip, take a trip. It's all about repatriation. If we take a trip up to Africa, I know you will feel no pain. Got to take a trip, take a trip, take a trip now. My brothers and sisters, got to take a trip. Oh yeah. Take a trip out of Babylon. Got to take a trip. Got to make a trip into the motherland. It's the third advice of the prophet, my people. Without the prophet, the people surely gonna perish. Let the third advice of the prophet. I know you're able. I know you are. I know you are. Hey. Take a trip. Africa needs its creators. Take a trip. All the builders and makers. Take a trip. Even the singers and players. Take a trip. Down, up, down, down. Got to take a trip. We got to take a trip. We got to take a trip. We got to take a trip. Got to take a trip. No more pain and tribulation. We got to be there. We got to be there. We got to be there. One bright morning when the work is over. We got to be there. We got to be there. We got to be there. To that land way over yonder. We got to take a trip. I've got a special invitation. Take a trip. Take a trip. More one time. I was born by the river in a tenement. And oh, oh, my poor mother, she could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Oh yes, it will. Two times. It's been too hard a living, and I'm afraid to die. Why? I don't know what's out there. Yeah, yeah. Beyond the sky. It's been a long time coming, but I know change is gonna come. Oh, yes, it will. Check say it why, out. Clef, say why. See, I go to my brother. Come on. And say what, And I say, brother, help me believe. Come on, help again. And he winds up knocking me, back down on my knees. Oh, it's been times when I didn't think that I will last for long, but now we think we're able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. Oh yes, it will. This has been the Fugees. L Boogie. Prizewell. Y Clef. The Refugees are out. A Change is Gonna Come. Un brano che dedichiamo a Pap Kuma, l'autore del libro da cui stiamo leggendo qualche brano questa sera, e a tutte le persone italiane con la pelle nera che sperimentano il razzismo proprio a causa del colore della loro pelle, proprio perché è una canzone che negli anni 60 e 70 negli Stati Uniti è stata la colonna sonora delle lotte per i diritti civili degli afroamericani. Quindi questa era A Change Is Gonna Come, qualcosa cambierà, e adesso ancora la voce di Lauryn Hill con To Zion. One day I'm gonna understand. Zaya. Touched my belly, overwhelmed by what I had been chosen to perform. But then an angel came one day, told me to kneel down and pray, for unto me a man-child would be born. Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance, but everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauryn, baby, use your head. But instead I chose to use my heart. Now the joy of my world is in Zion. Nothing more. me pray to keep you from the perils that will surely come. See, life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through onto life to be a beautiful reflection of His grace. See, I know that a gift so great is only one God could create. And I'm reminded every time I see your face that the joy of my world is in Zion. Now the joy of my world. Dunque, come vi dicevamo, Pap Kuma apre le pagine di questo suo libro, Noi Italiani Neri, difendendosi in un'aula di tribunale perché è stato aggredito da 4 controllori dei trasporti pubblici mentre camminava davanti a un tram fermo a Milano. Mentre camminava per la strada davanti a un tram, è stato fermato al capolinea di Piazza della Repubblica e 2 controllori del trasporto pubblico in divisa gli hanno sbarrato la strada chiedendogli di far vedere loro il suo biglietto. Cosa, insomma, un po' sconvolgente, perché in genere non capita che i controllori chiedano il biglietto dell'autobus alle persone che camminano per la strada. Storia di ordinaria follia, naturalmente. Infatti Pap Kuma risponde: perché devo avere un biglietto se sono un pedone? Anche, insomma, in una maniera piuttosto secca, ma cercando di controllare l'indignazione, anzi la rabbia che sorge dall'umiliazione, dall'abuso di potere ingiustificato, o forse giustificato solo dal colore della pelle. Facci vedere il biglietto e basta, insistono i controllori. E lui risponde: non sto né salendo né scendendo da un tram o da un bus. Siete voi che siete scesi da un tram fermo al capolinea mentre io stavo camminando. E loro: noi siamo a casa nostra e facciamo quel che vogliamo, ribadiscono i 2 controllori. E l'altro ripete: tira fuori il biglietto. E Pap Kuma risponde: a me non me ne frega un bel niente se questo marciapiede è casa vostra. E il controllore: tu sei un arrogante, vieni a casa nostra e pretendi di fare le leggi, cazzo, via di qui, non ti vogliamo vedere. Sono un cittadino libero e sto dove mi pare. Allora va da tua sorella, aveva urlato uno dei 2. Vattene via da tua madre, avevo replicato io. Fu a quel punto che uno dei controllori mi scagliò un pugno sul petto. Mi venne istintivo restituire quel pugno e da lì scoppiò la rissa, volarono pugni e calci. I controllori mi avevano buttato sull'asfalto. Avevo picchiato la testa. Altri 2 controllori, forse anche il conduttore del tram, si erano intromessi e mi avevano preso a calci come se fossi un pallone, mentre ero sdraiato per terra. Avevo cercato di proteggermi il viso mentre urlavano: blocchiamolo questo negro finché non arriva la polizia. Non facciamo scappare questo extracomunitario figlio di puttana. Ti sei messo nei guai, siamo pubblici ufficiali, te la faremo pagare cara, marocchino. Questo succedeva a Milano? Questo succedeva a Milano un paio di anni fa, era una notizia che era uscita anche... Infatti, ne avevamo parlato, mi sa, qua. Ne avevamo parlato anche qui ad Attica Blues, dove di solito facciamo un po' un inventario di queste storie di ordinario razzismo. Quello che non sapevano forse questi 2 controllori dell'ATM di Milano è che avevano trovato la persona sbagliata, cioè non una di quelle persone che spesso anche per non incorrere, insomma, in altre ripercussioni finiscono per abbassare la testa e restare in silenzio, ma si sono trovati davanti Pap Kuma, che questa storia l'ha denunciata alla stampa con ogni mezzo possibile e poi alla fine ci ha scritto questo libro da cui noi vi leggiamo qualche brano. Va bene, storie di ordinaria follia, come dicevamo prima. Che dire, non ci pensiamo, una Lauryn Hill tira un'altra, anzi pensiamoci in realtà, però così ascoltiamoci anche un po' di musica, una Lauryn Hill tira l'altra e questa è una sua tune con Bob Marley. Turn your lights down low. And pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl, on time, on time. Wow. I want to give you some love. I want to give you some good, good loving. Oh, I. Oh, I, oh, I. Yeah, I want to give you some good, good loving. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh, no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. Nah, nah, nah. Into our lives. Again, nah, nah, nah. Saying, ooh, I love you, I love you, I love you, and I want you to know right now, know right now, ooh, I love you, yeah. And I want you to know right now that I that. Every 3 minutes and 30 seconds of every day. And every chorus was written for us to recite. Every beautiful melody of devotion every night. This potion might, this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me. And every word, every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard. And when I play them, every chord is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you ask and then I'm telling you it's yes. Stand in love, take my hand. E allora questa storia dell'aggressione a Papkuma si conclude con lui che denuncia i controllori e la sua denuncia viene immediatamente archiviata, mentre i controllori lo denunciano per aggressione e lui si ritrova in un'aula di tribunale a doversi difendere non come vittima ma come imputato. E proprio per difendersi davanti al giudice racconta alcuni episodi in cui appunto il colore della pelle viene confuso con la razza e in cui storie insomma anche molto tragiche in cui persone dalla pelle nera si comportano come dei veri e propri cittadini italiani ineccepibili e invece vengono ripagati con la morte. I was never on time. Still I wanna get through to. Signor giudice, vorrei raccontarle brevemente la storia vera di Sar Gaye Samba Diouf, un senegalese di 30 anni che abitava a Rimini quando fu ucciso da Vincenzo Figliola, 21 anni, un martedì notte del giugno 2001. Sar Gaye Samba Diouf si trovava nella panetteria di Vincenzo Casadio insieme ad altri sconosciuti e vacanzieri, quando Vincenzo Figliola, Pasquale La Rosa, Antonio Varriale e un altro ragazzo di cui non sappiamo il nome, appena ventenni, sono entrati e senza motivi apparenti hanno insultato e minacciato i clienti e il gestore del bar. Nessuno ha usato protestare, tranne lui, l'unico nero casualmente presente. Ha chiesto ai quattro giovani di smetterla. Vincenzo Figliola si è infilato nel retro, ha afferrato un coltello del fornaio, è entrato in fretta e lo ha colpito 12 volte. Gli uomini presenti e il fornaio che Samba voleva tutelare non hanno mosso un dito. Samba è morto dissanguato lontano dalla sua famiglia. I giorni seguenti, mentre anonimi riminesi e amici della vittima piangevano e si organizzavano per onorare la sua memoria, dei politici dichiaravano sulla stampa di voler accertare se l'extracomunitario Sargay Samba Diouf era in regola con il permesso di soggiorno. Samba era in regola con il permesso di soggiorno, ma era questo il punto? Vincenzo Figliola avrebbe probabilmente colpito lo stesso se al posto di Samba ci fosse stato un uomo bianco ma generoso come lui. Ma in quel caso tutti avrebbero parlato di un eroe. È questo il punto. Il coraggio e il senso di giustizia non possono dipendere dal colore della pelle. Turn your lights down low. Never, never try to resist. Oh no. Nah, nah, nah. Oh, let your love come shining in. Nah, nah, nah. Into our lives again. E le racconto un'altra storia, signor giudice. Una storia che è successa veramente in Toscana nell'estate del 2004. Sheikh Sarr sacrificò la propria vita mentre salvava quella di un ragazzo che stava annegando sulla spiaggia di Castagneto Carducci. Sheikh Sarr era giovane, senegalese, la pelle nera. Viveva da tanti anni in Italia. Aveva una moglie in Senegal e una figlia nata lì durante la sua assenza e che lui non aveva ancora visto. Quel caldo pomeriggio d'estate, quando si era accorto che un bagnante stava annegando, Sheikh si era tuffato insieme a un altro generoso italiano. Erano riusciti insieme a salvare il malcapitato. Sheikh aveva speso troppe energie e non riusciva più a raggiungere la terraferma. Era in difficoltà e stava annegando. I bagnanti di Castagneto Carducci lo avevano visto un attimo prima, quando non aveva esitato a tuffarsi. Ora che toccava a lui, i tanti bagnanti non si erano mossi. Sheikh era annegato. Il bagnante sopravvissuto anche grazie a Sheikh non si era neppure fermato un secondo per dire grazie. Era sparito nel nulla. Per settimane politici e stampa locali molto riconoscenti a Sheikh hanno pregato il bagnante o un membro della sua famiglia di farsi vivo per dire grazie al defunto Sheikh Sarr. Mi dispiace per tua moglie e per tua figlia. L'unica consolazione a questo esempio di fulgido egoismo è stato il conferimento a Sheikh Sarr da parte del Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al valor civile. Questa storia mi ha insegnato due cose. La prima, che l'ingratitudine purtroppo non è reato, ma soprattutto che chi compie questi atti di coraggio ha alle spalle ben altre forme di coraggio. Ricordo che sui giornali la moglie ventenne di Sheikh, interrogata sul bagnante salvato, ha detto: «Mio marito l'ha salvato e ha fatto il suo dovere. Non è un eroe per questo. Il coraggio di mio marito è stato quello di emigrare ed è il coraggio di gran parte del nostro popolo». Allora, così il pensiero vola una scritta che ho trovato su una maglietta che recita più o meno così: non sono gli uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli uomini. Allora un blessing a tutti i brother, a tutte le sister in viaggio. E adesso passiamo a una produzione italiana con una voce dal mondo ospite. Sto parlando del CD di Ginko, la Shun Human. Love Tune, hanno girato questa sera Attica Blues. Allora un big up pure a tutti i Rude Boy e Policeman, Cool Down Your Tempa. Every time I drive me car, police a stop me super star. True, me drive a Fiat and a Mercel with me Lancia. Some more time I'm go a East London fi check some Cockney. Them a tell produce insurance license and emoti, but me say police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. Police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. To everybody in the dance line, I dedicate this style. Whether you are lawbreaker or you are informer, you could be a PCC ID or an inspector. Me no charge for murder, failing to produce is where me charge for. So police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. Cause me a smiley culture and used to drive up a Lancia, yeah. And me a drive car from me a teenager. Police officer me is a expert driver. So if you see me say no shout or no holler, no stand up in the road with a torch and try pull me over. Cause if it's a dark night myself you will get run over. No come behind me the road and start flash your flasher. I come rev it beside me pan your scooter. Cause me's a man who woulda just drive faster. And when me feel like it me woulda pull up on a corner. Before you ask any question me already have a answer. And any answer you get me one you know it would be farmland. So police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. Police officer no give me producer. Police officer no bother give me producer. I'm where your people's to me pass through Victoria. And through me a entertainer say no tax pan me window. As me go through the lights the whole road take over. And as me drive near I could see clear I was a black Mariah. With 6 and 7 plainclothes police officer. Them didn't look the type of police me could give a fiver. First thing that come into my head, good thing me hide me ganja. Next thing that happened, them waving, other words pull me over. I'm a coulda do is sigh and shrug me shoulder. And as them approach me, start wind down me window. Me a go tell you how me answer. Every question them fire. What's the name, son? My name's Smiley Culture. Yeah, where do you think you're coming from? Light from seeing me mother. What's the registration number of the car? Then I can't remember. What you got in the building, son? I can't say recorder. Would you like to have a look? Shy bloody man, if we ask you answer. Now take the keys out of the car and step out of the motor. Me and my colleagues have got a few questions to ask ya. You'll be on your way as soon as we get an answer. As me come out to the camera, think of me, I wonder what police officer could want with Smiley Culture. Cause with them touch, them I search the interior. But whatever them looking for, me hiding place superior. But the way them a search me hand to ask them what them a look for. But me try handle them cause them just handle me closer. Then one draw anchor put him on palm me shoulder and say, we ain't got no time for whites, we don't think you have neither. Just give us what we want, the real sense in mania. Me never had no chance, me draw out me ganja. As me do that, them start rub them on together. One say, should we put me in the van or in the back of the river? Me say, you can't do that, come in name Smiley Culture. You what did you do that record come? Only translator. In a reggae chance number one was its number. More kids love it and so does my mother. Tell you what I'll do, a favor for a favor. Just sign your autograph on this piece of paper. Me cutting shot and me just draw out me Parker. And the producer me just sign Smiley Culture. Them never lie, them never bother. Arrest me or take me gun. Cosa c'entra l'ingratitudine verso atti di coraggio di uomini neri che perdono la vita per salvare quella di uomini bianchi con il caso di Papkuma aggredito dai controllori dell'ATM a Milano? Ecco, che cosa c'entrano queste storie di un ragazzo senegalese con la pelle nera che nell'estate del 2004 ha salvato un ragazzo italiano su una spiaggia toscana, o quella di un altro senegalese di 30 anni che nel 2001 ha salvato un fornaio e i suoi clienti dall'aggressione di un 21enne che l'ha ammazzato a coltellate? C'entrano queste storie, sostiene Papkuma davanti al giudice. Il punto è che si disprezza il nero perché lo si giudica moralmente inferiore, quindi non si può accettare che ci dia delle lezioni morali. È proprio una chiusura mentale questa. Alcuni aggrediscono il nero e altri non gli riconoscono i meriti neanche al sacrificio della vita. Già, perché è proprio di questo che stiamo parlando, signor giudice, anche se nessuno lo vuole ammettere. Come spiegare l'aggressione di 4 funzionari pubblici verso un uomo che aveva osato replicare al loro abuso di potere? Sarebbe mai successo se quell'uomo fosse stato bianco di qualunque nazionalità? E se queste persone hanno agito così, è frutto di una iniziativa individuale o di un clima che infiamma le menti di parecchie persone? Forse è la seconda, che ha detto Pacuma. E infatti, per spiegare questo clima di odio, di razzismo, Papkuma decide di portare nell'aula del tribunale una serie di testimoni. Non testimoni in quanto persone che erano presenti quel pomeriggio di maggio in Piazza della Repubblica a Milano quando lui è stato aggredito dai controllori del servizio pubblico, ma in quanto persone informate del vero fatto che in quell'aula di tribunale non si voleva esaminare. E cioè, che cosa significa oggi essere italiani con la pelle nera? E il primo testimone che Papkuma chiama a parlare in tribunale non poteva essere altro che Mario Balotelli, che ha subito delle pesanti calunnie gridate in coro dai tifosi juventini allo stadio il 19 aprile del 2009 durante la partita di campionato Inter-Juve. Si tratta di un giovane calciatore nero italiano, probabilmente tutti e tutte lo conosciamo, Mario Balotelli, a cui la gente che stava sugli spalti a guardare la partita ha gridato e continua a gridare, insomma, molto spesso ancora oggi, frasi del tipo: un negro non può essere italiano, un negro non deve giocare nella nazionale italiana di calcio. C'è il piccolo problema che Balotelli è fortissimo. A giocare a calcio è fortissimo. Che devi fare? È italiano, è fortissimo. Vabbè, c'era la pelle nera. Beh, e allora? Dovrebbe essere in vanto, no? E poi un altro problema, insomma, grave, oltre agli insulti veri e propri, è il fatto, sono le reazioni agli insulti. Cioè, Papkuma denuncia anche il fatto che tutti gli esperti di calcio, i commentatori, i giornalisti e anche le istituzioni proprio del mondo del calcio hanno sempre minimizzato questi insulti razzisti, sostenendo che, insomma, Mario Balotelli non è l'unico calciatore nero in Italia, ma I cori si concentrano su di lui magari a causa del suo atteggiamento, del suo caratteraccio e tutta una serie di giustificazioni di questo tenore. Ma in realtà, secondo Papkuma, il problema è un altro. Il problema è che Balotelli è il vicino di casa la cui faccia sembra strana e il suo perfetto accento di lassù disturba. Balotelli è una palma del Tenerè venuta a piantarsi nel vostro giardino nel Tevere, cambiando per sempre il paesaggio. Insomma, una metafora molto poetica per dire che quello che disturba di più di Balotelli è il fatto che sia un italiano nero, che sono due attributi che fino ad ora sembravano opporsi a vicenda, come se non fosse possibile trovarli insieme, riuniti nella stessa persona. È un po' quello che Paul Gilroy diceva per l'Inghilterra degli anni Ottanta, quando ha scritto un libro che si intitolava There Ain't No Black in the Union Jack. Cioè, un modo per dire che nell'Inghilterra di quegli anni non era concepita l'idea che qualcuno potesse essere British e allo stesso tempo nero. Perché le persone nere che avevano in qualche modo l'onore, la possibilità, il diritto di accesso a la cittadinanza, almeno formale, poi portavano sempre sulla pelle un marchio che gli ricordava di essere stati colonizzati, gli schiavi, quindi per sempre estranei. Quindi il colore della pelle continua ad essere comunque un marchio di inclusione ed esclusione. E la storia di Balotelli è uno dei capitoli a cui è dedicato il libro di Papkuma, da cui vi abbiamo letto qualche brano questa sera, che si intitola Noi italiani neri, storie di ordinario razzismo. Ma i capitoli sono diversi, le storie sono tante. Papkuma racconta appunto episodi di razzismo che riguardano gli sportivi, proprio perché spesso gli sportivi vengono, specialmente quando entrano nelle squadre della nazionale di calcio o di qualsiasi altro sport, diventano un po' i rappresentanti della identità nazionale. Ma anche altri capitoli del libro sono dedicati invece ai giovani delle banlieue francesi, al confronto invece con la situazione dei giovani italiani dalla pelle nera, e anche alle storie dimenticate dei soldati africani che hanno combattuto contro il nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Insomma, tutta una serie di storie, di esempi che sono tratti da fatti realmente accaduti, che ci dovrebbero costringere a fare i conti su quella che è l'identità nazionale italiana proprio nell'anno in cui si celebrano i 150 anni dell'Unità d'Italia, che forse potrebbe essere, come dicevamo un paio di settimane fa, una buona occasione per riflettere sugli errori del passato e su come cambia il presente. E allora facciamo riassumere tutto questo a Rob Ernesta Marley. Chase those crazy ballads out of town. Babylon, you better get out of town. Chase those crazy ballads out of a town. Totally crazy. Thank you.

no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, yeah, yeah. E allora, di passaggio per le West Indies, lui è il clandestino insieme a Tootsie Bert. Sing this song with me. Come on. Come groove with me. The Mary Blues. The Mary Blues. A Mary Blues. Oh, Mary, Mary. I told you once. I told you twice. And I told you twice. Mica no, te lo dico pure tre volte, quattro, cinque. So many nights with your shadow in my bed. The Mary Blues. So many nights, baby, you whisper in my head. I cry. So many nights. So many nights. Sing along the Mary Blues. Mary Blues. So many nights. So many nights. I told you once. I told you twice. The Mary Blues. Allora, abbiamo parlato di viaggi, di migranti, quindi un super blessing a tutti i brother in Exodus. Questa è Traveling. Black Twine. I've been traveling all over this world, yeah. Jet set up. Tony Rotten. You got to do the best you can do. Yeah, the whole world stand up for me. I've been traveling all over this world. Rub the never one, the beat production. It's Rotten Nostra and Combination. Yo, boy is back in town. Oi, they track me down. Oi, I've been traveling, touring, and packing ground. Soon as I touch down, heads them pop now. They ain't forgotten my rotten sound, it's worrying now. I've been in different places, seeing different faces. All types of natives, old folks and babies. Cokeheads wasted, shoot it off free basis. Same struggle all over the world, it's the same shit. Ghetto youths trying to make it, government's trying to take it. I move like machines in a matrix. I'm still one of the favorites. Check the worldwide web pages. Heads relate to it in London, LA or Lagos. I'm highly rated for flipping proper UK shit. Took the two fat ladies, hip hop and then reshaped it. Love it or hate it, it's evolved and mutated. And I'm a new breed, a trailblazer, blowing up stages worldwide. I've been traveling all over this world. I've been around the world. You got to do the best you can do. All over the world, all over the world. Even before So Rotten, start, I was globetrotting. And I don't just do local shows, I go for it. Rhymes and flows popping, different time zones crossing. When I'm not in the studio, I'm touring all over a clothes shopping. I fly to Dubai and buy up the ghost tour. Then it's to Poland for old records and old books. Then my next stop is the Czech Republic. I'm a star in Prague and a czar in the Soviet. Got females following, screaming and hollering. Get tip flashes from fit, yeah, it's like topless modeling. Zurich love my music and I'm getting a Swiss cheese. All eyes on me like I'm doing a striptease. Been all over Germany with Sammy Deluxe. East and West, Austria, France and Benelux. Accepted in every spot like the bees of mine. I'm everywhere, ask anyone, the geezer of man is Black Twine. I've been traveling all over this world. I've been around the world. AFR, ICA. Been to Nigeria, to Jamaica and the US of A. Been to the Middle East, all over Europe and UK and Puerto Rico. Every year I'm everywhere, spreading that hip-hop gospel. I'm not one of them brands that can't see past their own nostrils. I've heard them to spit enough different languages. Enough crews and gangs that ain't from Los Angeles. On a world tour with a mic in my hand. Each and every place I flow, I live, I'm shouting at twang. Out in Japan, I'm in Japan. Dancehalls ram like a Jamaican Nissan minivan. Fire burning frigga man. Link up with them Trini man and spit on Calypso. What you know about them strobe lights? Hip-hop discos down under in Australia. All over the world. It's a hip-hop mania all over the world, Black Twine. I've been traveling all over this world. I've been around the world. You got to do the best you can do. All over the world, all over the world. Respect, very nice to have met you. You're very special. Yes. Live from the UK, Deptford, Lewisham. Blessings. UK, Africa, Asia, South America, North America, Australasia, West Indies. Bless. Europe, Black Twine. All over the world. Lauren Hill ancora. Very funny. It's funny how money changes situation. Miscommunication lead to complication. My emancipation don't fit your equation. I was on the humble, you on every station. Someone play young Lauren like she done. But remember not to game the one of the sun. Everything you did has already been done. I know all the tricks from bricks to Kingston. My ting done, major kingdom, one run. Now understand El Boogie, not violent. But if a thing test me, run for me, gun. Can't take a threat to me, newborn son. El been this way since creation. A groupie call you far from temptation. Now you on ball over separation. Tarnish my image in the conversation. Who you gon' scrimmage like you the champion? You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Now, now, how come your talk turned cold? Gain the whole world for the price of your soul. Trying to grab hold of what you can't control. Now you all lost with a sight to behold. treasure than silver and gold. I was hopeless, now I'm on hope pro. Every man wanna act like he's exempt. Need to get down on his knees and repent. Can't slick talk on the day of judgment. The movement's similar to a serpent. Try to play straight, how your whole style been? Consequences, no coincidence. Hypocrites always wanna play innocent. Always wanna take it to the full out extent. Always wanna make it seem like good intent. Never wanna face it when it's time for punishment. I know you don't wanna hear my opinion. There come many paths and you must choose one. And if you don't change, then the rain soon comes. See, you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just won one. Like your word is your bond, but until you do right, all you do will go wrong. Now some might mistake this for just a simple song, and some don't know what they have till it's gone. Now even when you're gone, you can still be reborn, and from the night can arrive the sweet dawn. Now some might listen and some might shun, and some may think that they reach perfection. If you look closely, you'll see what you become, cause you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. What's up?